piovere sopra di me, penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro e ferito, mentre porto il respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore. Polvere sopra di me, penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro e ferite, mentre porto il respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore, soffocando l'ennesimo amore. Poi il vertice del pensiero di ieri torna spento, dietro il giorno imperfetto, dentro l'ultimo sballo, mentre assuefatto dall'effetto del tuo profumo terso, lacrime di troppa vita perso, scrivo l'ultimo verso della sera, alla sua venuta propizia a ricordare immerso, in un essere di durezza, di partita, forse domani verrà a dare un sapore, aspettando nel cuore un nuovo bagliore, mentre vedo la polvere sopra di me, penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro ferite, mentre porto l'ennesimo respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore. La polvere sopra di me penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro ferite, mentre porto lo respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore, soffocando l'ennesimo amore. Sorgo, ritorno dal cuore spezzato, dentro un duro fiato gettato, il dispiacere nel mare, impasto l'ennesima sera solitaria, tutto quanto intorno, intanto diventa rigido sonno, immerso, rotto solo dalle bombe, del tempo che scorre tra le mie gambe, mentre corrono veloci verso salvezza, che scendono dal cielo senza parole, rimane pazza, solo l'idea che lei vuole, un sole mentre vedo. Rimane pazza solo l'idea che lei vuole un sole, mentre vedo la polvere sopra di me, penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro in ferite, mentre porto respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore, soffocando l'ennesimo amore. Porto ai giorni miei il ricordo, verso il petto sfondo, lacrime e sorrisi con cui in ritardo torno, a competere il tempo col duro veleno del cuore, mentre il tuo seno d'amore m'appare mentre tempo insaziabile ponte dentro mio, dove non c'è enigma, ma solo lo stigma ad affetto, mentre le lacrime immutabili che il mio petto verso incancellabili riarde la gola, mentre mancanza d'acqua tua, mentre piove tutta la mia, mentre vedo che il petto versa incancellabili riarde la gola, della mancanza dell'acqua tua, piove la mia, mentre vedo la polvere sopra di me, penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro e ferite, mentre porto respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore, soffocando l'ennesimo amore. Poi il vertice del pensiero di ieri torna spento, dietro il giorno imperfetto, dentro l'ultimo sballo, rimango assuefatto dall'effetto del tuo profumo terso, di lacrime di troppa vita perso, scrivo l'ultimo verso della sera, alla sua venuta propizia, a ricordare immerso, in essa la durezza della dipartita, forse domani verrà a dare un nuovo sapore, aspettando nel cuore un nuovo bagliore, mentre vedo. Solo la polvere sopra di me penetra lentamente il mio crine, sanguina dentro, ti respiro al cuore, soffocando l'ennesimo amore. La polvere sopra di me.